La situazione del sistema sanitario è nota, punte di eccellenza e sacche di inefficienza, visto che l'introduzione di tecnologia, in generale, dovrebbe corrispondere ad una riorganizzazione dei processi, il capitolo dell'agenda digitale dedicato alla sanità è un'occasione straordinaria anche per rivedere come funziona la macchina. I referti medici digitali sono già obbligatori e già si è iniziato ad utilizzare la ricetta digitale. Altro capitolo è quello del fascicolo o cartella sanitaria e anche in questo caso i vantaggi sono evidenti, come spiega il professor Francesco Montorsi, urologo al San Raffaele di Milano, uno dei centri pilota in Italia per i processi di digitalizzazione della sanità. Il principale vantaggio della digitalizzazione in medicina nel 2012 significa che ogni paziente, per qualsiasi visita ambulatoriale, esame strumentale di qualsiasi tipo e ricovero in un ospedale, possa avere una sua cartella informatizzata che contiene tutti gli elementi essenziali della sua storia, che è accessibile a qualsiasi medico che debba occuparsi di lui, è proprio un curriculum sanitario di salute che possa accompagnare il paziente sempre e garantirgli il miglior livello di cura. Dietro queste cose che sto dicendo esiste una organizzazione molto spinta, capillare, non è facile organizzarsi. Al San Raffaele ci stiamo riuscendo e i vantaggi che abbiamo visto in termini di precisione di cura e di riduzione di costi sono importanti. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.